Paris, fra come dice sti parole amare, fra come parlo cuore ma turmiente godarì, non da scordar che t'ha già dato cuore godarì, e non da Cadarì, cadarì, che veni a dicere stu parola che me da spasa me. E tu non capirendo sto nome mio, e tu non già pensa ch'io non te ne vuoi. Cuore, cuore ingrato, fai via la vita mia, tutto è passato e non c'è più. Sai che mi non dà la chiesa, di sotto su faccio priato a Dio Catarì, e l'aggio detto pure o confesso risto soffrì, perché la là, e sto soffrì, sto soffrì, non se può credere, so soffrì tutte le strazie. E confessare che persona santa, ma dico figlio mio, lascia la sala. Hello!